Sofia, vuol fare l'amore o solo il piacere? La linea è sottile, sei tutte le sere. Non vuol dormire mai da sola. Sofia, non va all'Unimi, ma va all'Unibo. Bonone Bologna, intendo non lo so. Lavoro ed ha lasciato scuola. Lei va di corsa, se triste non lo mostra. Ma serve anche la pioggia, se no un fiore non sboccia mai. Facciamo mamma non mamma, oh oh oh. Ma con le spine che taglia, no oh oh oh. Sofia va per la sua strada, oh oh oh. Io piango tutto il Niagara, negli occhi oro Sahara. Ma vedo ancora lei. La testa gira ma il cuore già lo sa. Lei mangia olive, io no, è la teoria di a Meteor Mother. Chiusi in una stanza, svegliavamo il vicino. Lei si toglieva il vestito e dopo mi toglieva il respiro. Non mi è chiaro perché in amore vado, al 100 all'ora e cado e ancora non imparo. Lei mette le canzoni di quando aveva 6 anni. Ho playlist incoerenti, un po' Battisti, un po' Bad Bunny. Lei va di corsa, se triste non lo mostra. Piange sotto la pioggia, così chi se ne accorge, dai. Facciamo mamma non mamma, oh oh oh. Ma con le spine che taglia, no oh oh oh. Sofia va per la sua strada, oh oh oh. Io piango tutto il Niagara, negli occhi oro Sahara. Ma vedo ancora lei. Le nostre iniziali sopra il muro di una via e non van via. E quel giorno alla stazione Sofia era sopra il vagone, io dietro la linea gialla, guardarla, guardare altrove. Ma poi succede che i destini si rincontrano. Facciamo mamma non mamma, oh oh oh oh. Però le spine ci tagliano, oh oh oh. Sono nel bagno del treno, stavo guardando il paesaggio e mi è venuta sta idea per il titolo del disco. Che ne dici di "non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato"?